punto e a capo. Io sono il boss, l'imprenditore, il proprietario del partito dell'amore. Io sono il Cesare, leader mondiale. Io sono il Papi, l'utilizzatore finale. L'avete riconosciuto, Roberto Benigni, con la sua canzone Vieni via con me, trasmissione di Fabio Fazio e Roberto Saviano. Dopo giorni di polemica, la trasmissione finalmente lunedì sera è andata in onda in prima serata su Rai 3 ed è stato sicuramente l'evento televisivo della settimana. Questa cosa delle donne, poi è arrivata l'escort di Palermo, l'escort di Bari, l'escort di Belletri, allora ha detto, dice, questa cosa è una vendetta della mafia. Ora io mi ricordo la mafia... si vendica, ha cambiato stile. No, dico, se la vendetta della mafia per Berlusconi è così, Saviano, ma a te che ti arriva tutte le sere c'è la sfilata di Miss Italia sul canerottolo per la camorra, ti mandano, no, una vendetta tremenda. Guardate che la mafia si vendica con Berlusconi così, quando vogliono essere tremendi, una volta ammazzavano, no, ora ti mandano due diciottenni a letto in carcere, orrenda, una cosa orrenda. Ma con me non si vendicano mai, mafiosi, schifosi. Fate schifo, vendicatevi se avete il coraggio. Le donne sono mie, sono potente, quindi le voglio tutte, soprattutto Rosy Bindi. E Roberto Saviano ha parlato tanto di mafia, in particolare del giudice Falcone, ha soprattutto parlato della macchina del fango che parte quando si vuole distruggere una persona. La democrazia è in pericolo nella misura in cui se tu ti poni contro certi poteri, se tu ti poni contro questo governo, quello che ti aspetta è un attacco della macchina del fango. Un attacco che parte dalla tua vita privata, da fatti minuscoli della tua vita privata usati contro di te. È mio il giornale, è il Viminale, e è naturale fra 3 anni. 7.600.000 spettatori, più del 25% di share. Vieni via con me ha battuto gli ascolti del Grande Fratello su Canale 5, che ha ottenuto il 20% di share. E il giorno dopo la trasmissione, Maria Piera Ceci ha intervistato Giorgio Simonelli, docente di giornalismo radiofonico e televisivo all'Università Cattolica di Milano e opinionista TV. Era un po' nell'aria, insomma, questo sorpasso. Intanto perché il Grande Fratello zoppicava già da qualche settimana, se non sbaglio è la terza settimana consecutiva che viene battuto. Mi ha sorpreso il fatto che sia stato battuto in maniera così clamorosa, così netta, e questo dobbiamo dire, insomma, è il grande merito di Saviano, Fazio e Benigni, insomma, della trasmissione, perché insomma forse insomma tutte le polemiche come sempre paradossalmente l'hanno aiutato, però alla fine poi la trasmissione io credo si sia imposta per i suoi valori, i suoi contenuti, la sua qualità televisiva. Benigni, comunque la si pensi, comunque davvero ci ha fatto ridere tantissimo, insomma si è dimostrato e ha ribadito il suo ruolo di mattatore, ha un po' dominato la scena ieri, che dice Simonelli? Sì, beh, ma questo è normale quando c'è Benigni, io credo che solo la sua presenza fisica così clownesca sia in grado di catturare qualsiasi spettatore. In più c'è questo, che lui ha questa arte straordinaria, anche quella del paradosso, cioè dimostrare la paradossalità invece delle cose che qualcuno dice credendo di essere sul serio. Ecco, questo della mafia è straordinario, questo ribaltamento. Saviano, vorrei dire, è apparso leggermente più scontato rispetto a Benigni. Sì. Effettivamente metterli insieme, insomma, parlare quando in una serata in cui parla Benigni deve essere sempre molto difficile, questo bisogna dirlo. Sembrato un po' vittima ormai della sua immagine? Sì, in una parte sì, soprattutto nella prima parte del primo intervento, prima che cominciasse la grande narrazione su Falcone, diciamo tutta la teoria della macchina del fango è sembrata un pochettino scontata e già un po' saputa. Devo dire che però che si è riscattato molto in un altro punto, abbiamo scoperto ieri sera un Saviano comico, anche perché Fazio è una grandissima spalla, quando ha fatto l'elenco di tutti gli indizi che portano all'omosessualità di qualcuno nella sua terra. Quell'elenco è stato strepitoso, dalla crema solare all'uso dell'ombrello, no, l'ho trovato veramente straordinario. Credo che Saviano ieri sera abbia scoperto una vena comica che non aveva mai rivelato. Punto e a capo. È morto giovedì a Los Angeles uno dei produttori cinematografici più famosi al mondo, Dino De Laurentiis, aveva 91 anni. Nella sua carriera, che è durata praticamente 70 anni, ha prodotto pellicole come Riso amaro con Silvana Mangano, che poi tra l'altro aveva sposato, Napoli milionaria, La grande guerra con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, che aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia. Paolo Panceri ha intervistato Luciano Vincenzoni, sceneggiatore della grande guerra, e così Vincenzoni ricorda come conobbe De Laurentiis. Davanti a lui seduto c'era il regista Carlo Lizzani e un avvocato. Allora Dino ha detto: "Vabbè, senti, ti do 15 minuti. Io mi sono seduto e gli ho raccontato La grande guerra, I due nemici, Il gobbo, Sacco Lanzetti. A un certo punto mi ha fermato e mi ha detto: "Mi hai raccontato 7 storie, dammele, le compro tutte. Quanto gli diamo?" E l'avvocato disse: "1 milione a soggetto e 1 milione al mese di stipendio, perché lo prendiamo in esclusiva per 3 anni. Ero entrato povero, sono uscito milionario. Punto e a capo. Immancabile tappeto volante, un genio della lampada che ne combina veramente di tutti i colori e una Jasmine femminista in lotta con le imposizioni del sultanato, ha debuttato al Teatro Nuovo di Milano Aladdin, il musical di Stefano Dorazio, il primo lavoro di Dorazio dopo l'uscita dai Pooh. Sentiamolo allora nell'intervista di Marta Cagnola. Io venivo dall'esperienza di Pinocchio, che è stata una favola, è stata la prima favola che mi ha portato nel meraviglioso mondo del musical, no? Grazie a Saverio Marconi, che mi ci ha trascinato in qualche modo per i capelli. E lì ho capito che mi divertiva moltissimo, no? Mettere una storia, una fantasia, metterla in musical, no? Allestire una storia intorno a dei movimenti, delle canzoni e qualcosa. Per cui avevo in mente la voglia di fare questa roba qui, però non avevo in mente di fare Aladdin, diciamo. Avevo scritto un po' di roba qui e là, no? Storie anche più dei nostri giorni. Quando però appunto sono sceso da famosa Astronave dei Pooh e mi sono ritrovato nella mia Pantelleria, che è un po' la mia isola del tesoro, Giovanni Maria Lori, che era il direttore musicale di Pinocchio, un giorno mi disse: "Se, perché non scrivi invece una cosa così su un'altra favola di queste, che ne so, Aladdin?" Succedeva che era una delle mie favole da bambino, che mio padre, quando avevo l'influenza, per non farmi annoiare a letto più di tanto, mi raccontava queste cose, e quindi ho cominciato a raccontare questa storia, che in realtà mi sono trovato così a stupirmi mentre andavo avanti di quello che succedeva. Ogni signore io andavo a letto e dicevo: "Chissà domani questi che mi combineranno." È tutto per questa settimana di notizie condensate in una sola ora. Grazie in regia Pietro Lacorte. Un saluto e una buona giornata da Alessandra Tedesco. Punto e a capo. Una settimana di attualità. Deve essere lui, cari amici, a prendere la decisione di rassegnare le dimissioni, di salire al colle, di dichiarare che la crisi è aperta di fatto e avviare una fase in cui rapidamente si ridiscuta l'agenda, ridiscutere l'agenda, discutere il programma, verificare la natura della coalizione, verificare la composizione del governo. Se in qualche modo prevarrà in lui quella autoconsolatorio quanto fasullo: "Ma che problema c'è, va tutto bene, adesso ci penso io, adesso rilanciamo, in qualche settimana mettiamo tutte le cose a posto", beh, cari amici, è evidente che Ronchi, Urso, Menia, Bonfiglio non rimarranno un minuto in più in quel governo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco, punto e a capo, una settimana di notizie raccontate in una sola ora. Abbiamo scelto le parole di Gianfranco Fini per iniziare, perché sono un po' le parole simboliche, significative di questa settimana politica. Erano le parole pronunciate domenica scorsa a Bastia Umbra alla convention di Futuro e Libertà. In questa puntata dunque parleremo molto della crisi di governo, ma parleremo anche naturalmente dell'alluvione in Veneto, che ha suscitato aspre polemiche. Una fra tutte, il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha detto: "I soldi prima al Veneto e poi a Pompei". E parleremo anche di Pompei, perché proprio una settimana fa crollava la scuola dei gladiatori. Andremo a Pompei con la nostra inviata a sapere come stanno adesso le cose. Sono tante dunque le notizie di questa settimana, ripartiamo subito dalla crisi politica. Segnali di crisi sono arrivati questa settimana anche proprio dal Parlamento, perché martedì il governo è andato sotto alla Camera per ben 3 volte. I finiani infatti hanno votato con l'opposizione e su che cosa? Sulla revisione del trattato di amicizia Italia-Libia, ossia quello che consente al Ministero dell'Interno di attuare i respingimenti in mare degli immigrati. E allora sentiamo la cronaca di quella giornata convulsa nel servizio. Umberto Bossi si offre di fare da mediatore, ma intanto il governo va sotto alla Camera. Un'altra giornata difficile che inizia con i buoni propositi del leader della Lega. Bisogna trovare l'accordo, la finanziaria va approvata, c'è il mandato di Berlusconi a trattare con Fini e quello di Fini a trattare con Berlusconi. Da trattare, diciamo che vedo lo spiraglio, lo vedo. Ieri non lo vedevo, oggi comincio a vedere. Anche di fine a trattare con Berlusconi. Ma intanto il governo va sotto a Montecitorio sui respingimenti nell'accordo Italia-Libia. I radicali presentano un emendamento che viene votato anche da Futuro e Libertà. Il risultato è 274 voti a favore, 261 contrari, come aveva chiesto il governo. Il ministro della difesa, Ignazio La Russa. Se qualcuno vuole che tornino i barconi, lo dica apertamente. Non credo che il FLI come messaggio politico voglia dire di essere d'accordo per l'immigrazione clandestina. È un boomerang da parte di un movimento che comunque si definisce di centrodestra. E i finiani spiegano così il voto con l'opposizione. Italo Bocchino. Noi siamo per i respingimenti, ma siamo anche per il rispetto dei diritti umani delle persone che respingiamo e quindi chiediamo solo che l'Italia solleciti diplomaticamente la Libia a far riaprire gli uffici dell'ONU a Tripoli. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio. Punto e a capo. Una settimana segnata dalla crisi politica, dicevamo anche che una tappa importante è stato l'incontro fra Umberto Bossi e Gianfranco Fini avvenuto giovedì. Il leader della Lega si era proposto come mediatore dopo che Fini aveva apertamente chiesto le dimissioni di Berlusconi. E allora sentiamo come è andato a finire questo incontro. Si è chiuso con un nulla di fatto l'atteso faccia a faccia fra Bossi e Fini. Fra Futuro e Libertà e PDL le posizioni restano ancora molto distanti nonostante il tentativo di mediazione del leader leghista. Dopo aver incontrato il presidente della Camera, Bossi, pur ribadendo il suo no all'ipotesi di un ingresso dell'UDC nella maggioranza, si era mostrato fiducioso sulla possibilità di andare verso un nuovo incarico a Berlusconi, evitando così una crisi al buio, un cauto ottimismo gelato però poco dopo da Fini e dai suoi, così Bocchino. Fini ha chiesto le dimissioni di Berlusconi, altrimenti noi saremmo usciti dal governo. Queste due cose sono certe, per tutto il resto aspettiamo che Berlusconi decida se dimettersi o meno. Da Seul però Berlusconi ha respinto l'ipotesi di dimissioni. Se Fini vuole potrà sfiduciarmi in aula alla luce del sole e davanti agli italiani, ha fatto sapere il premier, una posizione sulla quale si attesta tutto il PDL, come conferma Cicchitto. Escludiamo le dimissioni, riteniamo che in questa legislatura con questo risultato elettorale l'unico presidente del Consiglio possibile è Berlusconi e nella situazione attuale è questo governo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a questo punto gli occhi sono puntati a lunedì, quando i ministri di Futuro e Libertà lasceranno il governo, come annunciato dal capogruppo di Futuro e Libertà alla Camera, Italo Bocchino, alla trasmissione Anno Zero. Si aspetterà lunedì anche perché appunto ci sarà nuovamente il premier Berlusconi in Italia. Punto e a capo. L'alluvione in Veneto è stata l'altra notizia della settimana. Per giorni le forti piogge hanno messo in ginocchio soprattutto le province di Vicenza e di Padova. Danni per oltre 1 miliardo di euro, anche perché ad essere danneggiate sono state molte piccole aziende. C'è chi ha perso tutto, macchinari e merci, e deve ricominciare da zero. Chi è riuscito a salvare qualcosa e faticosamente ha ripreso a lavorare. Il nostro Simone Spezia è stato nelle zone alluvionate e ha registrato e ha realizzato un reportage per la trasmissione Italia in Controluce. E allora noi ve ne riproponiamo un brano. Io mi sono salvata perché sono 24 ore che non ho mollato, perché avevo 2 pompe. La città è in ginocchio perché la città ha fatto fronte solo con le proprie risorse ieri. Siamo riusciti a far sì che non ci fosse un blackout generale, però adesso Vicenza ha bisogno dello Stato. Fabbriche rovinate, distrutte, con la gente che piange che deve pagare i mutui, deve pagare le tasse, non ha materiale, ha contratti scaduti, non sa come fare perché non consegna la merce. Ad oggi siamo riusciti a ripartire con circa il 25% della produzione. Guardi, lo sciopero fiscale o quantomeno l'aspetto dell'IRPEF è una cosa funzionale al fatto che se non ci sono risposte ovviamente noi dobbiamo confermare che i nostri cittadini dobbiamo aiutare. Una frase del tipo: il governo ha stanziato 20 milioni, 50 milioni, 100 milioni, non è stata detta. La mattina di lunedì 1 novembre presenta una scena che ha dell'impensabile. Mezzi anfibi, gommoni dei vigili del fuoco persino, che attraversano il centro di Vicenza. In un paio di giorni, nel triangolo tra questa città, Verona e Padova, cadono 500 mm di pioggia. Il Bacchiglione, fiume che attraversa la zona, esonda in più punti. A Caldogno, sempre in provincia di Vicenza, dove si allagano completamente le frazioni di Cresole e Rettorgole, nella stessa città del Palladio, il centro storico, e si calcola spanne il 30% della città è sott'acqua. E poi ancora tracimazioni a Bovolenta, Tencarola di Selbazzano, Saletto, Veggiano, Vighizzolo d'Este. Tutta la roba che galleggia dentro in casa e l'ho alzata a un metro dal pavimento, è frigorifero, la stufa a pellet che mi ho comperato nuova. In poco tempo l'acqua è cresciuta fino ad arrivare in cantina a circa 1,40 m. È a casa mia, come dico, è in cantina, ma lì purtroppo c'è la lavatrice e il bruciatore del riscaldamento. Io ho la cantina sotto acqua, ma c'è la gente che è tutta quanta, quelle abitative sono tutte quante allagate. Aspettiamo che l'acqua vada via. Gli sfollati si contano a migliaia, i volontari 5.000 non riescono a prendersi un attimo nemmeno per dormire. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, definisce il tutto un disastro più grave dell'alluvione del 66 a Firenze. La prima stima dei danni è di 100 milioni di euro, decisamente al ribasso, perché forse non si è calcolato all'inizio che, oltre alle case, alle strade, alle auto, ai garage, alle cantine, ci sono le imprese di uno dei cuori produttivi d'Italia, una regione che vale il 18% del prodotto interno lordo, il 5,3% le sole tre province interessate, e fondata sul manifatturiero. Manifatturiero che per la sola provincia di Vicenza conta per 14 miliardi di esportazioni, macchinari distrutti o da risistemare, capannoni invasi dal fango, produzione ferma o quasi ad una settimana dai fatti. Claudio Bagante, direttore generale della SDB, che produce cavi elettrici speciali, racconta al microfono di Laura Bettini com'è la situazione. Alcuni impianti sono ancora fermi perché hanno subito danneggiamenti importanti. Tenga presente che tutte le macchine avevano i motori allagati e quindi stiamo provando a ricondizionare, alcuni motori abbiamo dovuto gettarli. Stiamo controllando tutta la parte elettronica perché quella è ancora più delicata. Quindi oltre al fermo produttivo c'è un danno pesante anche a livello di impianti e di materie prime. C'è di che aggiornarle dunque queste cifre. Il dato ufficiale per il solo comune di Vicenza parla di 158 milioni di euro, di cui una settantina per le abitazioni private, una ventina per gli edifici pubblici, il resto per le imprese. A poche ore dall'alluvione i 100 milioni si decuplicano letteralmente. Lo stesso Luca Zaia indica in 1 miliardo i danni subiti. Noi abbiamo una quantificazione macro in questo momento, ovviamente dobbiamo fare un censimento che sia ragionevole e serio. E dall'altro c'è anche da dire che il miliardo ragionevolmente è dato da due grandi componenti, quella dei danni diretti, e dall'altro dagli investimenti, cioè da tutte quelle infrastrutture idrauliche che noi comunque dovremmo realizzare per danneggiamenti da un lato e per nuove opere dall'altro. Quindi il miliardo è dato dalla spesa corrente e quindi i danni da rifondere ai cittadini e dall'altro le nuove opere. Avete sentito anche in questo reportage la parola d'ordine è stata un po' sciopero fiscale. A lanciare la provocazione è stato il vicepresidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, proprio dai microfoni di Radio 24. E allora sentiamo quanto ci aveva dichiarato domenica scorsa. Se domani verrà qualcuno a vedere, dicono: ma voi veneti vedo che sapete arrangiarvi da sole, quindi avete fatto molto bene, bravi. E quindi arrangiatevi pure. La considerazione è che ci arrangiamo anche con le tasse, se permettono, cioè bisogna ricostruire quello che è stato distrutto, i macchinari, ricomprarli, eccetera. C'è un po' un fermo produttivo che è una cosa gravissima in un momento peraltro in cui il nostro manifatturiero sta soffrendo Tenga conto che il manifatturiero vicentino esporta più della Grecia, questo manifatturiero tiene su una buona parte dell'economia italiana. Quindi se lo Stato in questo momento, poi quando sarà tutto a posto eccetera, viene qua e dice ma che bravi vi siete arrangiati, beh, in futuro ci arrangiamo ancora da soli, questa volta non passa così normale, non passa così perché non è possibile, cioè non siamo veramente stufi. E lo Stato, anche se con qualche ritardo, ha risposto. Mercoledì Berlusconi ha annunciato uno stanziamento di 300 milioni per il Veneto alluvionato. Prima parlavamo di 1 miliardo di euro di danni, per il momento ci sono solo 300 milioni. Lo stesso Berlusconi, insieme a Bossi, ha fatto un sopralluogo nelle zone alluvionate, zone visitate giovedì anche dal Presidente della Repubblica. Per aiutare le imprese in difficoltà, Confindustria ha lanciato una raccolta di contributi volontari da parte delle aziende associate. Un primo bilancio su quanto raccolto verrà comunicato entro la fine dell'anno. E allora sentiamo il presidente di Piccola Industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, al microfono di Sebastiano Barisoni. Abbiamo proposto questa cosa come Piccola Industria, Confindustria l'ha fatta propria, per lanciare questa sottoscrizione che ha un doppio valore, il senso di comunità paese che a volte si è perso per imprese che lavorano e vivono di italianità e di Made in Italy, e ci è sembrato doveroso in un momento delicato e difficile che il Veneto, alcune province del Veneto stanno vivendo, essere vicini ai nostri colleghi imprenditori. E polemiche sull'alluvione in Veneto ci sono state anche per le parole del presidente della regione, Luca Zaia, che ha detto prima i soldi al Veneto e poi a Pompei. Di Pompei, tra l'altro, parleremo fra poco. Ma il maltempo negli ultimi giorni si è concentrato anche al sud, soprattutto in Campania, nella provincia di Salerno. Qui ci sono 500.000 persone che sono rimaste senza acqua per problemi all'acquedotto. Fino a Natale, addirittura, l'acqua in alcuni quartieri di Salerno ci sarà per solo 2 ore al giorno. In provincia forse 2 ore, ma 2 volte alla settimana. Laura Bettini ha intervistato Mariano Mucio, presidente della Salerno Sistemi, il gestore del servizio idrico in città. Noi siamo riusciti a garantire l'erogazione continua, quindi fino a quando non terminerà questa situazione di emergenza dell'ASIS, la fornitura continua all'ospedale e al carcere di Salerno. È una serie di utenze cosiddette sensibili, così le definiamo noi, si tratta dei centri di dialisi, le cliniche, eccetera. Seconda operazione sulla quale stiamo lavorando in queste ore è quella che nell'area interessata dalla sospensione idrica di questi giorni e che continuerà in questi mesi, stiamo provvedendo a realizzare invece una serie di iniziative di interventi tecnici che potrebbero consentirci di continuare ad erogare acqua perlomeno per 2 ore al giorno per tutta quest'area. Ma senta, in provincia come stanno facendo? Guardi, ci sono situazioni in cui in alcuni casi gli obiettivi da raggiungere sono garantire acqua per 2 ore al giorno, ma 2 volte alla settimana. Io credo che vi sia una sorta di probabilmente negli organi governativi di non piena consapevolezza del dramma. Abbiamo chiuso le scuole, 2 ore al giorno dare acqua alle scuole mica consentirà la riapertura. Punto e a capo. Ancora una buona giornata da Alessandra Tedesco, punti a capo e il racconto di una settimana in un'ora. Il crollo di Pompei è sicuramente una delle notizie importanti di questa settimana. Esattamente sabato scorso, all'alba, crollava la scuola dei Gladiatori. Giovedì ci sono stati tra l'altro altri 2 cedimenti di muri, di cui magari non si è parlato molto. In questo caso sono stati subito avviati gli interventi di ripristino. Il ministro dei beni culturali, Sandro Bondi, ovviamente sulla graticola per quanto accaduto, ha detto più volte che non si dimette. Parlando al Senato giovedì ha anche aggiunto che il problema vero a Pompei non è la mancanza di risorse, ma insomma è capire come investire al meglio le risorse esistenti. Allora sentiamolo. La mancanza di fondi, voglio dirlo chiaramente, non è la causa di ciò che è accaduto a Pompei. Basta esaminare i dati. Pompei, a differenza di altre aree archeologiche, è una sovrintendenza speciale, per cui gli incassi dei biglietti non vanno alle casse dell'erario, ma entrano tutti nelle casse della sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei. Volete sapere qual è la situazione dal punto di vista delle risorse disponibili della sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei? Dal 2002 al 2010. Rispetto alle entrate e alle spese, nel 2002 le giacenze di cassa a fine anno erano 52 milioni di euro. Nel 2003 le giacenze di cassa erano 58 milioni di euro. Nel 2004 66 milioni di euro. Nel 2005 75 milioni di euro. E qui vedi questo passo. Fino ai 25, ai 43 milioni di euro del 2008 e ai 25 milioni di euro del 2009. Questi dati, onorevoli colleghi, dimostrano che il problema vero non è la mancanza di fondi. Il problema vero è quello di assicurare una gestione capace di utilizzare al meglio le risorse esistenti. Radio 24 ha mandato un'inviata a Pompei per vedere proprio così di prima mano com'è la situazione. Raffaella Calandra ha intervistato Ciro Mariano, vigilante da 30 anni negli scavi e segretario della CGIL a Pompei. Da qualche giorno nel sito archeologico sono comparse delle nuove transenne. Sono le transenne che hanno transennato presumibilmente la zona che è a rischio di frane dopo il crollo della scuola Armatorum. È tutta un'area tutta interessata a un probabile smottamento e quindi prima di accertare la causa precisa del crollo, per evitare rischi sia per i turisti sia per la vigilanza, si è transennata tutta la zona in attesa appunto che vengano fatti tutti i controlli da parte dei nostri tecnici. Però è l'effetto del crollo della scuola Armaturarum, perché sullo stesso lato di Via dell'Abbondanza però fa un certo effetto a vederlo, perché è metà della via principale di Pompei che è transennata, quindi anche in considerazione che è una delle zone di Pompei dove si è investito di più in questi mesi, consideriamo in questa zona c'è la casa di Polibete, i Castiamanti, che hanno costituito un po' il fiore all'occhiello, costituiscono il fiore all'occhiello di Pompei e della gestione commissariale degli ultimi anni. Però proprio queste due case, la casa dei Castiamanti e la casa di Polibio, hanno avuto tutte e due problemi di crolli. La casa dei Castiamanti a gennaio un muro è caduto e poi c'è stato anche un terrapieno che l'ha attraversata a novembre. La casa di Polibio ha avuto un problema con una trave, se non mi sbaglio. Io non è che voglio entrare nel tecnicismo, certo, delle cose. No, certo. È evidente che posso supporre che dei lavori un po' affrettati per aprire queste cose non hanno avuto, diciamo così, gli aspetti, non si sono seguiti gli aspetti tecnici fino in fondo. E questo perché Pompei presenta uno degli aspetti fondamentali che a volte è sottovalutato è la regimentazione delle acque. Cioè, perché quando si, lo sappiamo, e questo è un po' il problema del paese Italia, che quando si rende impermeabile alcune aree, poi c'è il problema, le acque dove vanno. In questi 35 anni sono tanti, com'è cambiata Pompei? Ma paradossalmente il problema di Pompei oggi è che è tutta nuda, cioè nel senso che fino a 20 anni fa Pompei era coperta, tre quarti di Pompei erano coperti da rovi, da edere, cose. Oggi si è fatta poi una politica fortunatamente di pulizia di tutta la città e oggi tutte le pecche di Pompei si vedono, sono al nudo, si vedono tutto. A questo è seguito poi un'opera di restauro della città, ma chiaramente che ha interessato solo il 30% della città. C'è ancora un 70% della città che deve essere messo in sicurezza. Qual è secondo lei la zona che è più a rischio in questo momento? No, ma la zona più a rischio sono le zone all'interno della regione ottava, all'interno della regione sesta che presentano problemi. Ma che tipo? Cioè, perché sono zone che sono chiuse queste? Sono zone chiuse, ma c'è che devono essere sostituite, la maggior parte devono essere sostituiti i tetti che presentano problemi di infiltrazione di acqua e problemi di staticità. In alcuni muri ormai la malta che li mantiene in piedi si è liquefatta e quindi si bisogna intervenire immediatamente con un'opera di rifacimento della malta e dei muri. Punto e a capo. Prima parlavamo dei soldi per Pompei, ma in questi giorni sta parlando tanto di soldi, di economia per la finanziaria, o meglio, come si chiama adesso, la legge di stabilità. E allora ecco il punto della situazione nel servizio. Ultime limature in commissione bilancio per il pacchetto sviluppo. Le misure presentate dal governo come modifiche alla legge di stabilità valgono 5,7 miliardi di euro. Di queste un miliardo è destinato all'università, 1,5 agli ammortizzatori sociali ed ancora 245 milioni vanno alle scuole paritarie, 400 all'autotrasporto trasporto, 100 al 5 per mille ed altrettanti all'editoria, 375 milioni sono destinati alla partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali. Slitta al mille proroghe il cosiddetto eco bonus. Sul provvedimento che sarà in aula alla Camera martedì si concentrano intanto i dubbi dei tecnici di Montecitorio. In particolare sotto accusa il ricorso a misure una tantum come l'asta delle frequenze per coprire spese ordinarie. Critici poi gli enti locali, l'allentamento del patto di stabilità per 1,2 miliardi non basta, dicono regioni e comuni che chiedono al governo un incontro urgente. In agitazione il mondo dello spettacolo che annuncia lo sciopero generale per il 22 di novembre. Sulla finanziaria torna a parlare infine il capo dello Stato che spiega: non ho mai sostenuto che non bisogna fare tagli alla spesa pubblica, ma ho invitato a fare delle scelte, dice Napolitano, e a stabilire delle priorità. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Ancora la vicenda di Ruby sta tenendo banco in questi giorni. In questa settimana c'è stato un botta e risposta a distanza fra il ministro dell'Interno Maroni e il sostituto procuratore dei minori Anna Maria Fiorillo, sostituto procuratore a Milano. La Fiorillo ha smentito la ricostruzione del Viminale sull'affidamento della minorenne marocchina al consigliere regionale del PDL Nicole Minetti. Il ministro ha annunciato querela, insomma vedremo come andrà a finire. E noi invece andiamo a risentire l'intervento del deputato di Futuro e Libertà Enzo Raisi, intervenuto alla Zanzara, il programma serale di Giuseppe Cruciani. Sentiamolo. Abbiamo un capo del governo che è intervenuto personalmente per mantenere in Italia una clandestina che ha fra l'altro precedenti penali, no? Che si chiama Ruby. Sì. Dopodiché, se si chiama Mustafa, no? E casomai è uomo villoso e un po' puzzolente, ce ne freghiamo che fine fa in Libia. Allora, questo è il tema che in qualche modo si discute. Ma Maroni ha detto che è tutto regolare, lei non ci crede? Oh, ha detto che è tutto a posto, no. Il caso è chiuso, e tutto si è svolto regolarmente. Lei invece contesta questa rimane, scusi, questa rimane a tutt'oggi. Fra l'altro, all'epoca era minorenne, quindi si stava anche, non poteva essere spinta. Questa, comunque, oggi mi risulta sia ancora in Italia. Sì, ma un permesso di soggiorno. A 18 anni, professor Giorgio, chi gliel'ha dato? Gliel'hanno dato per motivi giudiziari, gliel'hanno dato. Che lavoro fa, scusi? Che ne so, fa quello che fa, la cubista, che ne so, fa le serate. Che lavoro fa? Fa le serate a 10.000 euro a allora, botta. Allora, vuol dire che ti chiami Ruby, hai permesso di soggiorno. Ti chiami Mustafa, ripeto, ti viene cacciato via, giustamente, perché la legge va applicata contro i clandestini, però perlomeno abbiamo una garanzia. Perché lei dice che Berlusconi ha fatto in modo di far avere il permesso di soggiorno a Ruby? Ma lei ha mai visto un presidente del governo? Il presidente del governo ha mai intervenuto nei confronti di Mustafa? Che ne so, no, credo di no. È generoso Berlusconi, lo sa, magari è intervenuto. Appunto, io oltre a Ruby c'è anche Mustafa. Mustafa perché non è mai intervenuto? Qualcuno lo deve spiegare, no? Punto e a capo. Si chiudono oggi a Parigi i campionati del mondo di scherma ed è stata una settimana veramente esaltante per l'Italia, con il solito bottino di medaglie che sono arrivate soprattutto dal fioretto femminile. Nella gara individuale c'è stato un podio tutto azzurro: campionessa del mondo Elisa Di Francisca, al secondo posto Arianna Errigo, terza l'eterna Valentina Vezzali. E allora sentiamo la Di Francisca intervistata subito dopo la vittoria da Dario Ricci. Sono felicissima di essere arrivata finalmente a quest'oro, che da stamattina dico oro, vedi? Mi sono fatta il lavoro di mental coach da sola, me lo ripetevo ogni secondo e finalmente è arrivato. Prima Di Francisca, seconda Errigo, terza Vezzali, segno che ormai un cambio di generazione è arrivato definitivamente? Sì, nel senso che vabbè, l'Italia è sempre stata fortissima e adesso a dimostrazione questo mondiale, ma anche il mondiale dell'anno scorso, a dimostrazione che oltre alla Vezzali c'è qualcos'altro, nel senso che ci sono tante ragazze giovani che comunque ambiscono alla medaglia e bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Le fiorettiste imbattibili anche nella prova a squadre, dove le azzurre hanno conquistato l'ennesimo oro battendo in finale la Polonia. Delusione invece nella spada femminile, campione del mondo uscente, che a sorpresa si è fermata agli ottavi. Per quanto riguarda invece gli uomini, nel fioretto a squadre sono stati, ahimè, battuti in finale dalla Cina. Hanno conquistato comunque l'argento, c'è stato un ricorso da parte degli italiani che però purtroppo è stato respinto. Punto e a capo.